Radio Wombat. Da sempre. E obiettivamente. La migliore. Buonasera, buonasera a tutti, vombati e vombattesse. Speriamo che la mia voce vi arrivi vagamente dignitosa. Avete appena sentito i miei sproloqui mentre provavo a fare funzionare tutta l'ambaradan che ho qui davanti a me. Io mi chiamo Mario e bene, sono qui con voi per tenervi compagnia in questa lunghissima diretta che andrà avanti almeno fino alle 9, ma abbiamo un sacco di contributi, un sacco di cose da mandare. Cosa sentiremo oggi? Sentiremo un sacco di voci, qualche musichetta, vogliamo fare un giro per il mondo e andare a vedere che cosa succede in Rojava, in Turchia, in Portogallo, in Tunisia, a Bologna e nella nostra Firenze. Toccheremo i soliti temi di attualità legati al coronavirus, avremo approfondimenti sulle battaglie contro gli affitti, parleremo con i sindacati, con studenti, con studiosi. E poi vedremo da dentro, o meglio da fuori, cioè dalla strada, qual è la situazione di chi in strada vive in questi giorni difficili. Parleremo di lavoro, di turistificazione, di altre amenità, condendo il tutto con qualche canzoncina scelta da me medesimo. La puntata è quindi ricchissima, non c'è decisamente tempo da perdere e allora inizio subito a ricordarvi quali sono i contatti. Per ascoltarci c'è lo streaming sul sito wombat.unoblogs.org. Potete invece scriverci anche in diretta su postawombat@insiberia.net oppure usare il bellissimo pad, il cui link troverete nella home del sito. L'indirizzo comunque è pad.riseup.net/p/diretta wombat, lineetta clip, ma è difficilissimo, bisogna usare credo anche le maiuscole, quindi la cosa migliore è decisamente cliccare direttamente sul link che si trova nella home. C'è anche un indirizzo per lasciare i vostri messaggi vocali, l'indirizzo è messaggeria.degenerazione.xyz/wombat, anche quello trovate il link sulla prima pagina del sito. C'è un bottoncione rosso con scritto registra dove ci potete inviare tutti i disproloqui che volete. Nella scorsa settimana ce ne sono arrivati alcuni bellissimi, noi li abbiamo raccolti in sequenza e ve li mandiamo subito, così intanto mi leggo anche se l'audio funziona e ci risentiamo subito dopo. Allora vi volevo dire che siete bellissimi, vi bacerei in bocca a tutti, a presto. Ciao a tutti e tutte, sono Bricco Baldo, sono nell'orto e ho da dirvi una cosa riguardo all'ultima puntata della Caramella Brusca che è, in una parola sola, clamorosa. Dio camalupente, cane, maiale, lupo e serpente. Chiedi la situazione in Spagna, io cioè, mai stato più isolato di ora, ovviamente, e che altro, situazioni di appoggio mutuo, come si dice qua in spagnolo, nei quartieri sì ci sono, mi è arrivato almeno un paio di robe su WhatsApp di gente che aiuta, si offre per aiutare chi non può per fare la spesa, eccetera, oppure di aiuto con i bambini, un centro sociale tipo la Redadera, tutto qua è accettato, boh, sì, direi di sì, la gente qua, boh, almeno nel quartiere dove sto io, se la maggior parte sono vecchi, sicuramente fiduciosi nello stato del governo, accidenti a loro, ieri una vecchia mi ha gridato dal palazzo per parco fare ginnastica con i cani, mi ha gridato ma te fai ginnastica o porti cani, gli volevo dire ma te cazzo te ne frega vecchia de merda, speriamo di prendere il virus, però mi sono contenuto, però sì, la gente ti vede e ti scoccia che tu magari sei fuori perché c'è il cane, per il resto non so perché i giri seguenti che abbiamo qua non li possiamo frequentare perché siamo lontani dal quartiere, il tempo di arrivarci ci inizierebbero di sentire tutti. Noi siamo qua in questa situazione di blocco a casa da un tempo in Italia, da neanche una settimana, scattato il blocco sabato, mi pare. Sì, giovedì, neanche una settimana, cioè, comunque, basta. Bacioni a tutta Radio Wombat. Qui da Madrid, da Usera, al quartiere cinese, e basta. Bacione a tutti. Ciao, ciao. Allora, a parte che con Gizzi mi avete svoltato perché riesco a vederla Milly, sicché vi mando baci in bocca a tutti, grazie mille di cuore. E poi vi volevo dire che con la radio state facendo un lavoro fantastico e che siete proprio bellissimi, siete più belli degli sputi a Nardella. Allora, io passo molta parte della giornata, buona parte della giornata a fare video lezioni per lavoro. Vi devo dire, nei momenti di pausa, di attesa o di esercitazione, cosa metto? La fuga di gatto della mitica Pinky e compagnia di Radio Wombat. E funziona benissimo, apprezzatissima da tutte le classi degli studenti. Grande fuga di gatto. Di questi giorni odio svegliarmi la mattina, aprire la finestra e vedere bandiere tricolori appese al bancone dirimpetto. Dimostrazione insopportabile dei muri mentali delle persone che ci circondano. Come se di questi giorni non bastassero le mura di casa. Dio camalupente, cane maiale, lupo e serpente. Eh sì, Dio camalupente a tutti i bandierati d'Italia, grazie per i baci in bocca, anche voi siete più belli degli sputi a Nardella. Che bello sentire queste voci. Lo ricordo di nuovo, per lasciarci contributi audio, dalla home del sito c'è un bellissimo link con un bottoncione rosso dove potete registrare tutto quello che volete. Beh, che cosa stiamo per fare? Allora, stiamo per fare una piccola rassegna stampa con alcune notizie degli ultimi giorni e delle ultime ore. Poi una canzone, tiriamo il fiato e andiamo avanti con il primo dei nostri approfondimenti di oggi. Ne abbiamo davvero di bellissimi, quindi appena la smetto di parlare io ci saranno contributi meravigliosi, rimanete quindi incollatissimi con le orecchie alle vostre cuffie, al vostro computer, alla vostra radio, alle casse che avete o comunque ascoltateci intensamente. Mettiamo una canzone che non è un granché, ma è appropriata alla situazione, torniamo subito con la rassegna stampa e via, Wombat! Thank you. vivendo una crisi, e una crisi c'è sempre ogni volta che qualcosa non va. Questi erano i Dire Straits, questi sono i Dire Straits, quelli di prima erano i Blue Vertigo con La Crisi. Allora, iniziamo con questa breve rassegna stampa, ho sei articoli, sei argomenti da raccontarvi. Iniziamo subito e andiamo anche molto veloce perché davvero la puntata è molto ricca e vogliamo lasciare tutto lo spazio del caso agli splendidi contributi che ci sono stati mandati e che vi invitiamo a continuarci a mandare su postawombat@insiberia.net. Vorrei iniziare segnalando due articoli sul tema della turistificazione a Firenze. Il primo si intitola Il gigante coi piedi d'argilla, l'economia turistica vista dalla quarantena. Lo si può trovare sul sito di Resistenze, che è resistenzefirenze.onoblogs.org. È un lungo articolo pubblicato dal laboratorio di Laddarno che va con dati e numeri a fare i conti in tasca all'industria turistica fiorentina. Leggo soltanto un passaggio di questo lungo articolo per farvi capire di cosa si parla. Dopo decenni di martellanti messaggi massmediatici ci avevano quasi convinti che il turismo sarebbe stato il volano dell'economia toscana. La pesante promozione delle mete turistiche, la deregolamentazione edilizia, il proliferare delle piattaforme per affitti brevi che promettevano di redistribuire i profitti mentre di fatto scaricavano sui piccoli proprietari i costi di attivazione di un'economia infestante e i forti investimenti attuati da regione e comuni nella progettazione di inceneritori ed aeroporti hanno determinato un tasso di crescita del flusso turistico del 54,2% dal 2010 al 2018. È stato così che interi quartieri di Firenze si sono svuotati. Adesso il centro storico ospita solamente 62.206 residenti. Si sono svuotati delle attività che storicamente li riempivano, sostituendo i servizi di vicinato con bistrò, storiche botteghe e antiche pelletterie. I prezzi dell'affitto dei negozi sono saliti anno dopo anno, raggiungendo standard vacanzieri persino nei piccoli supermercati di zona. Quindi, mentre si allontanavano ospedali e università ed in quegli immobili si realizzavano musei ed infopoint, in città si raggiungeva la media di 17 strutture ricettive ufficiali e ben 217 esercizi di ristorazione per chilometro quadrato. Questo è soltanto un passaggio dell'articolo di cui ripeto il titolo, Il gigante coi piedi d'argilla, l'economia turistica vista dalla quarantena. Lo si può trovare sul sito resistenzefirenze.onoblogs.org. Un altro articolo invece di cui voglio parlarvi è sempre sullo stesso tema, questo invece lo si può trovare sul sito di Per un'altra città, che è perunaltracitta.org, ma è stato ricondiviso anche sulla pagina online del quotidiano del Fatto Quotidiano. Il titolo è Firenze punta ancora sul turismo nel nuovo piano urbanistico, uno scenario inquietante. È un articolo che è stato scritto dal gruppo urbanistica di Per un'altra città. Questo è un articolo in cui si fa un bilancio delle politiche urbanistiche del primo quinquennio della giunta Nardella, ma anche si fa notare qui come l'intenzione sia quella diabolica di perseverare. E infatti nel nuovo piano operativo che andrà a sostituire il regolamento urbanistico del 2015 non vi è in realtà niente di nuovo, ma anzi c'è una semplice e triste linearità. Nell'articolo c'è scritto questo: a fronte di tali dichiarazioni, abbiamo analizzato gli effetti delle politiche urbanistiche nel primo mandato Nardella. I risultati mostrano una città immolata all'industria turistica, dove la rendita immobiliare è massimizzata, forte del brand Firenze. Ecco, ed è questo ciò che si va a analizzare in questo articolo, lo si fa approfonditamente per arrivare poi alla comprensione di come il nuovo sarà in realtà in continuità con il vecchio in questo piano operativo, in cui viene disegnato uno scenario inquietante dove il ruolo da protagonista rimarrà sostanzialmente in mano alla proprietà immobiliare. Non ci allontaniamo molto, anzi rimaniamo parecchio vicini per temi e geografia, e stiamo sull'argomento dell'aeroporto di Firenze. Ora, questo probabilmente chi segue assiduamente Wombat lo ha già visto, l'abbiamo ricondiviso nelle nostre pagine, ne abbiamo parlato nelle nostre trasmissioni, ma la notizia, comunque mi sembra assolutamente fondamentale darla, è quella che negli ultimi giorni la giunta regionale sta portando avanti il progetto di allargamento dell'aeroporto di Firenze. La giunta sta andando avanti in barba a tutti, in barba al coronavirus, in barba anche alla giustizia amministrativa, che ha più volte bocciato questo allargamento come contrario agli interessi pubblici. E nonostante questo, esattamente una settimana fa, è stata approvata dalla Giunta la nuova variante al piano di indirizzo territoriale per lo scalo di Peretola, per l'aeroporto Amerigo Vespucci. Fra gli altri, anzi per primo, è giunto il commento di Tommaso Fattori, che dice: «Sono sbalordito del fatto che, nel pieno di questa emergenza, la Giunta trovi il tempo di approvare in tutta fretta l'avvio dell'iter di una nuova valutazione ambientale strategica nel tentativo di superare le 70 prescrizioni indicate dal Consiglio di Stato nella sentenza del 13 febbraio scorso». Queste le parole di Fattori. Ecco, e magari varrà la pena anche ricordare come esattamente questa stessa, che è mantenuta impostazione progettuale, sia già stata bocciata anche dal TAR della Toscana, e non di meno si sta continuando lo stesso sulla stessa linea. E infatti nel nuovo documento approvato figura anche un cronoprogramma di questo rinnovato procedimento di valutazione ambientale, che prevede l'approvazione della proposta finale da parte del Consiglio regionale nel 2021. Quindi cosa si cambia? Il modo di valutare l'impatto ambientale, non certo il progetto, se non fosse abbastanza chiaro. La denuncia di tutto questo arriva da Per un'altra città, da Potere al Popolo, da Sì Toscana a Sinistra, oltre che da vari comitati e dalle frequenze e dalle pagine di questa radio. E ancora il commento di Fattori su questo, che dice: «C'eravamo illusi che dopo la definitiva bocciatura da parte del Consiglio di Stato la pianificazione territoriale della regione toscana avrebbe cambiato segno, accantonando definitivamente il nuovo aeroporto, puntando sul parco agricolo della Piana e su scelte condivise con i sindaci e con la popolazione. Invece la Giunta sta preparando il terreno a uno dei punti fondamentali del programma elettorale del candidato presidente Giani, punto peraltro pienamente condiviso anche dalla destra, senza risparmiarsi nuove forzature in una situazione drammatica come quella che stiamo vivendo». Quindi nulla è ancora detto, ci sarà ancora da lottare, e anche noi di Radio Wombat, che del resto lo abbiamo sempre fatto, non ci tireremo certo indietro. Ancora una notizia che arriva dalla Toscana, questa volta andiamo a Pisa. La notizia è di ieri, 4 aprile, quando sei fattorini, sono stati multati dai carabinieri per assembramento. Sono stati multati perché erano troppo vicini gli uni agli altri di fronte al garage nel momento di riconsegnare gli scooter usati per lavoro. La multa fatta a ciascuno è di 400 euro, che è più della metà del loro stipendio. E beh, a me mi sembra una cazzo di vergogna questa. Davvero una vergogna che cose del genere accadano, ma noi ci sentiamo quindi di consigliare ai carabinieri di svolgere il loro prezioso dovere, per il quale sempre li ringraziamo, infilandosi a questo punto pure al chiuso delle fabbriche o degli ospedali, o magari stazionando all'interno dei mezzi pubblici la mattina alle 7 o la sera alle 19, che ne dicono? Avranno così occasione di far fioccare multe su multe e farci sentire tutti quanti più al sicuro. Andiamo invece all'estero per questa ultima sezione della rassegna stampa. Andiamo precisamente in Tunisia. Dalla Tunisia che, come molti altri paesi, ha chiesto ai cittadini di rimanere a casa, di rimanere chiusi in quarantena, arriva un video che è stato diffuso dal Ministero degli Interni dove si vede, anzi sono più di uno, sono diversi video sempre diffusi dal Ministero degli Interni tunisino, dove vediamo dei robot corazzati che si chiamano P-Guard e costano $140,000 l'uno, che sembrano dei carri armatini, anzi dei mezzi carri armati, sono grossotti, con sopra una sirena e una telecamera, che girano per le strade fermando le persone e chiedendo cose come da dove vieni, da dove stai andando, fammi vedere la carta d'identità, con una voce registrata. Addirittura la stessa voce registrata risponde, se uno risponde sto andando a comprare le sigarette, la risposta è una cosa tipo vai a comprare il tuo tabacco ma poi torna a casa, è per la salute di tutti. Tutto questo lo fa una voce registrata. Io lo dico perché mi ha inquietato, non per altro, e anche perché ho cercato a fondo di trovare la risposta a una domanda che mi è rimasta in testa, ovvero che cosa succede, che cosa accadrebbe di fronte al rifiuto di rispondere, o per esempio se uno, che ne so, scavalcasse un muretto e quindi il robot non lo potesse più seguire. Che cosa accadrebbe? Io non lo sono riuscito a trovare, se qualcuno per caso lo sa me lo faccia sapere. E poi ancora una notizia dall'estero, questa qua arriva invece dal Portogallo. Già domenica scorsa avevamo fatto un collegamento con una compagna che si trova a Porto, che ci aveva raccontato di come stava andando la situazione lì da lei. Dal Portogallo in questa settimana sono arrivati due provvedimenti di segno opposto da parte del governo. Non sto quindi a introdurvi niente, direi di passare direttamente la parola a lei e ascoltiamo. Cari amici di Radio Wombat, buonasera, un abbraccio a tutti. Intanto ci tengo a ringraziarvi per la compagnia che ci tenete in questi giorni noiosi di quarantena. Io sono Cecilia e anche oggi vi riporto un paio di notizie dal Portogallo, dove mi trovo. Giusto per iniziare vi do due numeri. Le persone contagiate ad oggi sono 10.524, con 266 morti in totale. L'aumento giornaliero è di circa 600-700 persone e i contagi sono concentrati maggiormente nelle regioni del nord, dove io mi trovo. Visto l'aumento dei casi chiaramente prevedibile rispetto alla settimana scorsa, e anche se per il momento contenuto rispetto a molti altri paesi europei e non, lo stato d'emergenza è stato prolungato dal 3 al 17 aprile, con misure straordinarie per il periodo di Pasqua, cioè 4 giorni che vanno dal 9 al 13 aprile. In questi giorni, ad esempio, è vietato uscire dal proprio comune di domicilio. Questo per evitare che le famiglie si spostino nella seconda casa o dei familiari nei paesi in campagna. Insomma, già tutti conoscete questa misura. Inoltre è obbligatorio il telelavoro per chi proprio è impossibilitato nello svolgimento del telelavoro, deve comunque possedere un'attestazione e è eliminato qualsiasi volo, anche di rimpatrio, ad eccezione di alcuni voli umanitari straordinari. Ma oggi, nello specifico, vi volevo parlare di due misure applicate dal governo socialista portoghese, di cui si è sentito molto parlare anche in Italia. La prima è la regolarizzazione di tutti i migranti. Il governo portoghese ha previsto infatti per tutti i migranti, con una procedura di regolarizzazione avviata al giorno 18 marzo, cioè il giorno da cui vige lo stato di emergenza, la regolarizzazione automatica, così come per le autorizzazioni scadute. La scintilla che ha portato all'elaborazione di questa misura è scattata nella seconda settimana di marzo, quando un nepalese, un lavoratore nei campi nel sud del Portogallo, è risultato positivo al coronavirus. La conseguenza è stata che 79 nepalesi sono stati messi in isolamento in un padiglione di una scuola. Di questi, in un primo momento alcuni sono fuggiti, la paura di un rimpatrio o di un arresto. Tutte si è tranquillizzato in un secondo momento quando è stata spiegata la situazione. 2 settimane dopo rimanevano in isolamento 18 persone ancora positive, gli altri erano già tornati a lavorare nelle serre. La misura cerca di mitigare l'ingolfamento previsto per la chiusura dei servizi legati all'immigrazione. Inoltre, permette agli immigranti regolarizzati di avvalersi del sistema sanitario pubblico, come per tutti i cittadini, e di accedere alle richieste per i sussidi, come quello di disimpiego, come quelli straordinari previsti per la situazione data dal coronavirus. Ora, la situazione legata all'immigrazione in Portogallo è ben diversa da quella italiana. La misura va a beneficio soprattutto della comunità brasiliana, la maggiore in Portogallo, che conta all'incirca il 4,5% della popolazione. Il ministro dell'Interno, Eduardo Cabrita, ci tiene a sottolineare il suo impegno a garantire i diritti ai più fragili in tempi di crisi. È proprio partendo da questa affermazione che vi introduco la seconda misura del governo. Misura già presente nel decreto del 18 marzo, ma tuttora rinnovata e ampliata. Il governo portoghese ha sospeso il diritto allo sciopero e alla resistenza, onde evitare disagi in una situazione già precaria dovuta al virus. Chiaramente la misura è considerata eccessiva, in un paese in cui, tra l'altro, il governo si vanta continuamente del grande senso di responsabilità innato dei cittadini e dell'auto-organizzazione che questi hanno dimostrato in una situazione critica come questa. Al decreto sono conseguiti chiaramente licenziamenti di massa, come nel caso della TAP, la compagnia aerea, senza tra l'altro la possibilità per i lavoratori di alzare la voce. Al fine di mettere una toppina a questa situazione, il ministro del Lavoro, della Solidarietà e della Sicurezza Sociale ricorda l'esistenza di un numero di telefono attivo presso l'autorità per le condizioni del lavoro, dove è possibile denunciare i soprusi subiti dai lavoratori, come ad esempio il licenziamento senza motivo. Chissà se il numero basterà a garantire i diritti ai cosiddetti più fragili. Amici miei, con questa ultima notizia, purtroppo peggiore rispetto alla prima, vi mando un grande saluto. Niente abbracci e bacetti che aumentano il rischio di contagio e a te già! E quindi abbiamo sentito come in Portogallo ci siano stati due provvedimenti di segno davvero opposto, la regolarizzazione di tutti i migranti e il divieto di sciopero per i lavoratori. Penultimo punto di questa rassegna stampa ci è stato inviato alla mail della radio, anzi direi che è il caso di leggere. Ciao a tutti e tutte, vi scrivo per consigliare questo progetto di Internet Archive che raccoglie qualche milionata di libri, tutti in free download, molti anche in italiano. Tanti abbracci virtuali, vi voglio bene. Noi, beh, ricambiamo ovviamente gli abbracci virtuali e ricondividiamo a nostra volta questo progetto che effettivamente io sono andato a vedere, l'ho trovato eccezionale. Si intitola ZLib, l'indirizzo è z-lib.org, è un progetto che esiste dal 2009, dove si possono scaricare gratuitamente davvero milionate, per la precisione 5.030.559 libri, anche 77.498.431 articoli. Tutti i dati sono in aggiornamento sul sito, che ripeto è z-lib.org. Perché non farlo davvero, soprattutto in questi giorni, importantissimo progetto che mi sento ben volentieri di riproporre qui. Dulcis in fundo in questa rassegna stampa. Proseguiamo con la folle rubrica domenicale che abbiamo inaugurato la scorsa settimana assieme ad Antonio Probo, che alla faccia di Paone è il mio comico preferito, sempre dopo il grandissimo Massimo Ceccherini. Io preciso questo giusto per farvi capire quale sia il mio buon gusto. E allora via, Antonio Probo ci racconta oggi chissà quali assurde notizie dal mondo, ascoltiamo. He's doing all right. He can play the honky-tonk like anything. Buonasera da Antonio Probo. Siamo alla rassegna stampa consueta domenicale. Ciao Mario, ciao Wombati e ciao un po' insomma anche a tutti quegli altri. Siamo 5 aprile 2020, rassegna stampa di oggi. Buonasera, iniziamo con la sigla. Non c'è la sigla, non abbiamo questi mezzi tecnici, immaginatela, potete fare quello. Comunque, beh, prima notizia tratta un giornale nostro, i miei, come penso anche molti radio, tele, eccetera, spettatori, che è Contopiano, da Contopiano. India, neomamma partorisce due gemelli e li chiama Corona e Covid. Chissà che festone per il 19° compleanno del piccolo Covid. Questo insomma direttamente da Contopiano, ecco, selezionato questa bellissima notizia del giorno, notizia felice, bella. Andiamo avanti con un altro giornale, invece cartaceo questa volta, che ecco, sentite, lo sto sfogliando, proprio non è un libro, ma è proprio con il giornale Repubblica. Da Repubblica, notizia su De Luca, chiaramente il più grande stand-up comedian italiano. Il governatore Vincenzo De Luca chiede ai campani di restare a casa e di tornare alle usanze più ataviche. Quindi la pastiera, la famiglia e minacciare Saviano. Minacciare Saviano. Continuiamo, ecco, sentite proprio la cartaceità del terzo giornale, che è il Matto Quotidiano di Marco Bavaglio, direttore Marco Bavaglio che saluto, da Antonio Provo. La brava et avvenente, scrive sempre un po' così in modo lirico il Bavaglio, la brava et avvenente tennista russa Maria Sharapova o Sharapova ha condiviso il proprio numero di telefono con i fan. Chissà quanti secondi sono passati per il primo manda foto piedi, insomma, un punto di vista particolare, quello del Matto Quotidiano. Arriviamo all'ultimo, chiaramente la più attesa notizia di questa trilogia più uno, perché sono quattro, quindi non è trilogia, insomma, mi scuso gli autori. Ecco, da Teramo News, quindi giornale, ecco, sentite il taccheggiare, ticchettare del mio portatile. Ecco, Teramo News, Amadeus, conoscete tutti, Amadeus ha rivelato al magazine di DPTV, cioè questa piccola incomprensione, ecco, di DPTV, di essere affetto da lieve daltonismo. I colori che riconosco senza problemi, ha continuato il presentatore, sono il giallo, il blu e il nero, che poi sono quelli del nostro amato tricolore. Ecco, bene, ringraziamo quindi Amadeus di questa rivelazione importante. Caro saluto, insomma, da Antonio Probo a Mavio di Colomba Radio Covid. Ciao. Va bene, grazie ad Antonio Probo. Dopo questa follia direi che è subito il caso di mettere una canzoncina. Ci sentiamo subito dopo per il primo degli approfondimenti di oggi. Rimanete super sintonizzati che ora si fa sul serio. Accenderemo candele per rischiarare la terra ed il mare, idealmente abbracciare tutte le case che un governo più ladro ha lasciato senza acqua. Manca l'acqua. Stavo guidando a passo d'uomo dentro a una fila interminabile di semafori ed auto, e avevo davanti un camion di frutta, gonfia e rigogliosa, sicuramente era nata lontano da qua. Abbastanza baciata, figlia fuggita, dimenticata, mentre era nata di frutta, lontano da qua, desiderata, figlia voluta, desiderata, figlia amata, figlia agognata, e figlia agognata, ma abbastanza baciata, e ma abbastanza baciata, figlia fuggita, dimenticata, mentre era nata di frutta, lontano da qua, desiderata, figlia voluta, desiderata. Con Manca l'acqua, pensavo che mancassero un po' al nostro bobinone diaframma, e poi c'entrano abbastanza col tema di cui stiamo per andare a parlare, non il diaframma ma il tema, il titolo della canzone. E quindi andiamo a iniziare questo primo approfondimento con una dolorosa notizia che ci arriva dalla Turchia. È morta infatti ieri l'altro, a 28 anni, in un ospedale dove era ricoverata contro la sua volontà, la musicista e cantante turca Elin Bolek, della formazione musicale Group Yorum. È ovviamente una notizia che non avremmo mai voluto dare, invece eccoci qui che ne parliamo. Anche se molto meglio di me saprà farlo Cecilia, della Mezzaluna Rossa Curda e di Rise Up for Rojava, la cui voce chi è un habitué della radio ha già più volte sentito. Ecco, le abbiamo chiesto innanzitutto di raccontarci di questo. Ascoltiamo. È morta la cantante e musicista turca Elin Bolek, componente del compresso Group Yorum. Aveva 28 anni ed era in carcere da tempo, e da 288 giorni aveva intrapreso uno sciopero della fame per ottenere la liberazione di tutto il gruppo musicale Group Yorum e la fine del divieto a cui esso è sottoposto di tenere concerti, distribuire dischi. Giunta allo stremo, era stata trasferita dal carcere a un ospedale dove ha continuato a rifiutare cibo e cure. Il Group Yorum viene fondato nel 1985 da un gruppo di studenti universitari e da allora ha sempre proposto canzoni di ispirazione socialista, legandosi alle lotte del popolo turco e a quelle internazionali, e i suoi membri sono sempre stati attivisti, tanto che i loro concerti erano diventati momenti di incontro dell'opposizione turca al regime di Erdogan. Dopo varie persecuzioni giudiziarie, dal 2015 al Group Yorum è stato vietato di tenere concerti e incidere dischi, e i suoi componenti sono stati incarcerati e sottoposti a centinaia di processi con l'accusa di far parte di gruppi terroristici. Gruppi terroristici è la definizione che il governo di Erdogan notoriamente usa per legittimare la detenzione di molti oppositori politici. Al momento le carceri turche straripano di gruppi terroristici che non sono altro che persone che hanno parlato di pace e si sono opposte all'invasione di Afrin nel nord-est siriano, o che hanno parlato di genocidio riferendosi al massacro degli armeni, o che semplicemente solidarizzano con i popoli del Rojava, o per dirla del tutto, qualunque persona si sia opposta alla dittatura di Erdogan in questi anni. Ora si teme per la vita del chitarrista Ibrahim Gocek, che anche egli del gruppo Rum è stato condannato all'ergastolo ed è in sciopero dalla fame da ben 291 giorni. Elin si aggiunge a una lista purtroppo lunga di coloro che hanno dato la vita lottando all'interno delle carceri in Turchia nell'unico modo a loro possibile, dando tutta la loro vita, dando tutto loro stessi e smettendo di mangiare, facendo uno sciopero della fame. Poco fa se ne è tenuto un altro, dei prigionieri politici curdi, anch'esso durato a lungo e che ha lasciato dietro di sé 8 morti. Yaşamayı neylerim özlem özlem neylerim yasak yasak neylerim. Ai membri del gruppo Rum, a Ibrahim,

Natale e la famiglia per quattro mura, per avere sempre un po' di più, un pochino di più, un pochino di più, un pochino di più, un pochino di più. Hai chiuso gli occhi e ora la vita ti aspetta fuori e tremi sempre un po' di più, un pochino di più, un pochino di più, un pochino di più, un pochino di più. Borghesia, sono bastati un paio di secoli ed ecco già che voli via. Mi sembrava fosse in effetti anche parecchio attuale questa canzone, proprio perché vogliamo introdurre adesso un nuovo tema che avrebbe affrontato Bricco Baldo nella sua scorsa diretta se fosse riuscito ad andare in onda, siccome ha avuto qualche problema poi risolto, quindi tranquillissimi tutti aficionados, lo sentirete di nuovo dalla prossima settimana in queste dirette serali, il tema degli affitti. Siamo infatti a inizio mese, è tempo di pagare l'affitto, il governo ancora non si è espresso su questa questione che rischia giustamente di diventare una vera e propria bomba sociale. Come la si può affrontare? Quali proposte ci sono in campo? Beh, Bricco Baldo ha registrato tre interviste che vi mandiamo in sequenza, intervenendo però di volta in volta per annunciare un po' di cosa stiamo per parlare. Ascoltiamo il primo breve contributo, che è una telefonata registrata assieme a Giulia del coordinamento degli studenti della Link, che hanno fatto un appello assieme all'Unione Inquilini e al collettivo bolognese Pensare Urbano. Richiedono al governo un contributo affitti, ma ascoltiamo dalla sua viva voce di cosa si tratta. Allora, siamo al telefono con Giulia del coordinamento Link. Che cos'è il coordinamento Link, prima di tutto? È un coordinamento di studenti e studentesse universitarie che si trova nelle grandi università del paese. Allora, nel grande sconvolgimento di questi giorni, una delle emergenze principali è l'affitto, che colpisce, insomma, un'emergenza che colpisce tutte le persone presenti sul territorio, ma in particolare gli studenti e le studentesse fuori sede. Avete fatto un appello, se brevemente ci puoi dire di cosa si tratta. Sì, abbiamo fatto un appello al governo con Unione Inquilini e Pensiero Urbano, che è un collettivo bolognese, per richiedere un contributo affitto per tutti, lavoratori, precari, studenti, famiglie. Perché appunto, come hai detto tu, l'affitto è una delle questioni centrali dell'emergenza economica data dal coronavirus. La nostra proposta è quella di un contributo che andrebbe erogato con un fondo di emergenza proprio per il Covid e tramite dei meccanismi online, telematici, che permettono il ricevimento del denaro da parte delle persone. L'idea appunto questa, noi non chiediamo la sospensione dell'affitto immediatamente, ma appunto quest'altra tipo di soluzione emergenziale, perché in realtà la sospensione dell'affitto andrebbe a ricadere sugli inquilini ma nei prossimi mesi, quindi siccome per noi l'emergenza sarà molto lunga, ho appunto fatto questa proposta del contributo affitto. Ecco, quindi dicevi, secondo voi la sospensione andrebbe poi a ricadere sugli inquilini futuri? Sì, cioè nei prossimi mesi sugli inquilini, perché una sospensione diciamo allo stato attuale potrebbe soltanto avere o delle ricadute successive, nel senso che comunque i proprietari potrebbero pensare di fare anche dei ricorsi, delle cause, o comunque se questa cosa diciamo si dovesse ufficializzare andrebbe dato comunque un'indennità ai proprietari. A questo punto, invece di ripagare parzialmente i proprietari per la sospensione, conviene adottare un contributo da dare agli inquilini. Tra l'altro altri gruppi hanno un po' spinto invece per uno sciopero dell'affitto, avete un'opinione a riguardo? Francamente mi sembra una misura un po' irresponsabile, perché comunque appunto uno sciopero dell'affitto senza nessuna garanzia espone l'inquilino a delle cause legali. Quindi obiettivamente chi è che si potrà permettere uno sciopero dell'affitto? Soltanto chi si può permettere una causa legale. Bene. Per questo... Bene, prego, prego. No, dico, per questo dico, dal punto di vista dell'immaginario politico, è sicuramente una pratica interessante, però nella pratica, secondo me, può avere delle conseguenze veramente difficili da gestire. Bene, e invece avete preso anche in considerazione, ad esempio, le autoriduzioni, perché sì, sono anche queste. Ma infatti, tra l'altro, stanno girando anche online dei moduli per, diciamo, ricontrattare il contratto, che secondo me, se appunto ci può essere un'interlocuzione con il proprietario, può essere una buona soluzione ricontrattare il contratto ad un canone più basso, proprio data la situazione di emergenza, oppure proporre di cambiare anche il sistema di cassazione, per esempio adottando un canone concordato con cedolare secca, il proprietario avrebbe una tassazione inferiore e quindi anche la possibilità di chiedere un canone minore. Bene, avete un appello da sottoscrivere, dove lo troviamo? È sul sito di Link Coordinamento Universitario. linkcoordinamentouniversitario.it. Eccoci, questa era la voce della Link, mentre più netta di questa e a mio personale avviso anche più condivisibile è la posizione, la proposta dell'organizzazione politica giovanile Noi Restiamo e di Asia USB, che è l'associazione inquilini ed abitanti appunto dell'Unione Sindacale di Base. Bricco Baldo ha raggiunto a telefono Federico di Asia, sentiamo subito che cosa gli ha detto. Allora, al telefono con Federico di Asia Bologna. La questione è il problema degli affitti, che è sempre più pressante, sempre più forte, soprattutto nelle città dove gli affitti hanno visto impennate negli ultimi anni a causa della turistificazione di massa. Ciao Federico. Ciao. Allora, intanto se ci puoi descrivere quello che state approntando con Asia a Bologna. Avete pubblicato, ho visto tutta un post su Facebook con una serie di indicazioni per effettuare uno sciopero dell'affitto. Di che cosa si tratta? Sì, allora, vabbè, innanzitutto comincio dicendo che appunto questa è un'iniziativa che di fatto ha già preso una dimensione nazionale. Quindi non è solo Bologna, non è solo l'Emilia Romagna, in questi ultimissimi giorni ci sono state diverse assemblee regionali che hanno visto protagonisti, tra i protagonisti, non gli unici, il nostro sindacato, quindi Asia USB, e una realtà giovanile che si chiama Noi Restiamo, e abbiamo appunto organizzato all'inizio un'assemblea nazionale la settimana scorsa, venerdì scorso, proprio su questo tema, e poi diverse assemblee locali. Io comincio dicendo una cosa che prima nominavi anche tu, ed è un po' uno dei temi ricorrenti secondo me in questo momento di crisi dovuta all'epidemia da coronavirus. Qui stanno emergendo con fin troppa forza, purtroppo, delle lacune, delle condizioni che tuttavia esistevano già ancora prima di questa emergenza, cioè il caro affitti, la carenza di finanziamenti e quindi di accessibilità dell'edilizia pubblica erano già un problema per molti di noi e per molti cittadini, e oggi andiamo a purtroppo verificare, a toccare con mano i limiti di quello che è stato un po' un sistema nelle ultime decine d'anni, quindi privatizzazione dell'edilizia pubblica e troppa mano libera al mercato privato. Quindi partiamo da una condizione in cui già gli affitti sono alti. Oggi naturalmente tante persone, non c'è bisogno di dirlo, incontrano problematiche economiche perché rimangono escluse addirittura dagli integratori salariali tradizionali e dalle misure messe in campo dal decreto Cura Italia. Moltissimi ne sono completamente esclusi, tanti altri non hanno di che vivere attraverso queste misure di integrazione al salario o attraverso i 600 euro che si sono potuti richiedere fin da oggi. E questo evidenzia un enorme problema abitativo. È chiaro che noi siamo, in quanto sindacato per il diritto all'abitare, siamo pronti a intraprendere anche azioni forti come quella di uno sciopero degli affitti. Ma soprattutto noi stiamo cercando di costruire un piano di soluzioni e di cambiamento reale. Perché appunto, se tante persone, soprattutto tanti giovani, noi abbiamo avuto in queste ultime assemblee un exploit di studenti fuori sede che hanno rappresentato con forza la loro problematica rispetto all'affitto e la non volontà, fra l'altro, di andare a pesare magari sulle spalle dei genitori, a far pesare quell'affitto sulle spalle dei genitori, di tanti lavoratori precari, di tanti di quei lavoratori che oggi sperano di accedere ai 600 euro, ma sanno benissimo che è meno della soglia di povertà relativa e che non si riesce a vivere e pagare un affitto con quei soldi, e oggi si stanno organizzando. E noi stiamo costruendo un piano di organizzazione e di rivendicazione, e siamo anche disposti appunto ad appoggiare, qualora non ci saranno cambiamenti da qui ai prossimi giorni, dal punto di vista di coperture economiche e di tutele per chi deve pagare l'affitto, siamo anche disposti ad appoggiare e organizzare un'iniziativa come lo sciopero dell'affitto. Finora come ci stiamo muovendo? Innanzitutto noi abbiamo fatto già da tempo richieste di incontri e tavoli a quasi tutte le amministrazioni regionali e pochissime ci hanno risposto, e ci hanno risposto quasi tutte, fra l'altro, dopo che abbiamo indetto uno sciopero generale nazionale, quindi ci è voluto un bel po' per farsi ascoltare. E appunto in questi tavoli noi richiedevamo intanto che tutto ciò che è già previsto, già stanziato a livello di contributi all'affitto venisse messo in campo, perché esistono delle misure di questo tipo, ma anche se non sono sufficienti, e fra l'altro sono soldi che vanno in mano direttamente ai proprietari. Qui quindi c'è bisogno di uno sforzo straordinario, come su tante altre cose, e quindi stiamo chiedendo intanto una sospensione, così come è stato fatto. L'unica cosa che è stata fatta è stato di fatto un blocco dei procedimenti degli sfratti, e chiaramente questo non può che essere una buona notizia, ma anche qui siamo ancora sul temporaneo. Si prevede un ritorno alla normalità quando finirà l'epidemia? Probabilmente no, per tanti continuerà una situazione di difficoltà economiche, quindi bisogna prevedere degli strumenti a lungo raggio. Quindi la moratoria sugli sfratti va procrastinata ulteriormente in avanti, vanno messe in campo delle ulteriori integrazioni all'affitto, e non soltanto, diciamo, in maniera diretta a chi è proprietario e per di riffa o di raffa, diciamo, non si vedrà pagato l'affitto, ma perché tanti, non è una scelta politica per molti quella dello sciopero dell'affitto, è una scelta molto materiale. Marzo ancora, ma tanti si stanno chiedendo materialmente come pagheranno l'affitto di aprile. Ed è qui che deve intervenire un governo, è qui che devono intervenire le regioni, con sostentamento, con un blocco temporaneo degli affitti senza, diciamo, generare procedimenti di indebitamento futuro, quindi andare a coprire quelle spese, quei buchi che si genereranno, e poi intervenire in maniera ancora più cospicua con l'erogazione, e di questo si sta parlando moltissimo negli ultimi giorni, di un'integrazione trasversale a prescindere dalla categoria lavorativa al reddito. Cioè noi abbiamo individuato in questo elemento qui l'elemento rivendicativo più forte che si possa mettere in campo oggi. Così come, fra l'altro, il reddito di cittadinanza instaurato in tempi ordinari, un paio d'anni fa ormai, proprio per fare fronte a problemi di lavoro povero, quello che veniva chiamato lavoro povero, quel reddito di cittadinanza conteneva una quota a parte da destinarsi all'affitto. Noi quello che stiamo chiedendo oggi è che con le iniziative che porteremo avanti nei prossimi giorni, compreso questa dello sciopero e della sospensione degli affitti, stiamo richiedendo è che si ampli il portato delle misure di integrazione al reddito, a partire dal reddito di cittadinanza già esistente, perché il fondo di ultima istanza non è sufficiente, e che si preveda un ampliamento sia della possibilità di accedervi, quindi un abbassamento delle condizionalità, e sia un ampliamento degli importi messi a disposizione e delle quote destinate all'affitto. Quindi diciamo che, come sempre succede, quello dello sciopero, quello del manifestare un dissenso, è uno strumento di organizzazione, di lotta e di rivendicazione, perché è chiaro che non possiamo pensare semplicemente che si bloccherà tutto fino a data da destinarsi. Dobbiamo già adesso avere delle certezze, perché appunto noi possiamo, come abbiamo sempre fatto, fare azioni di questo tipo, appoggiare scioperi dell'affitto, resistere eventualmente anche agli sfratti che poi si genereranno dopo, ma non c'è la possibilità invece di prevenire questa situazione di difficoltà sociale, di non arrivare soltanto procrastinando il problema di qualche mese a ritrovarci sotto a decine e decine, migliaia e decine di migliaia di portoni di persone che rischiano di essere sfrattate di casa. Noi crediamo che sia questo un po' i termini a cui bisogna fare riferimento, ovvero misure straordinarie di integrazione al reddito di tutte le persone che oggi materialmente, ripeto, non per una scelta politica di qualche tipo, ma materialmente non riusciranno a pagare l'affitto. Quindi ci aspettiamo che con questa mobilitazione che stiamo facendo, che stiamo intraprendendo e che, ripeto, se non cambierà niente, si concretizzerà in aprile, noi speriamo che questo sia una spinta alle istituzioni a mettere in campo qualcosa di più di quello che è stato messo in campo adesso. E l'ultima cosa che dico, a livello molto pratico, noi abbiamo già domani scriveremo lettere al governo nazionale, a tutte le amministrazioni regionali e a tutti i giornali, rendendo pubblica la nostra piattaforma rispetto alla questione degli affitti, e abbiamo già diramato a tutti coloro che hanno bisogno dei moduli siglati, diciamo, dalla nostra organizzazione sindacale, da rivolgere sia al proprietario di casa e sia anche tramite il sindacato alle istituzioni di prossimità, proprio per andare a dimostrare quante siano le persone che oggi, compilando appunto questo modulo, di fatto testimoniano la propria impossibilità a pagare l'affitto. Noi confidiamo che, siccome questi moduli ce li stanno chiedendo migliaia di persone in tutta la penisola, io mi immagino che nei prossimi giorni i comuni saranno invasi da questi moduli che arriveranno per posta di persone che ad aprile, anzi già a marzo, sicuramente ad aprile, non avranno di che pagare l'affitto. Ma non comunque quello che stiamo facendo. Non si tratta di moduli dell'auto di riduzione dell'affitto, giusto? Sì, esatto. Noi abbiamo fatto questa piccola modulistica, che è chiaro che non è un elemento risolutivo, perché purtroppo non esistono nel diritto italiano spazi di questo tipo. Però, diciamo, diventa un elemento anche di trasformazione di un problema soggettivo in un problema collettivo. Però i moduli di riduzione, scusami se ti interrompo, sono dei moduli che vanno da chi ha la casa in affitto al proprietario. Noi abbiamo specificato anche con questi moduli che abbiamo messo in circolazione che appunto ci debba pervenire una copia di questo modulo che viene messo nelle mani del proprietario di casa, come testimonianza anche della appartenenza a un sindacato, come elemento di tutela collettiva, ma che questi moduli non vadano solo nelle mani di un proprietario. Non si può lasciare tutto soltanto alla trattativa inquilino-proprietario, anche se c'è il sindacato di mezzo. Noi stiamo raccogliendo copia di tutti i moduli che vengono compilati, in modo tale da inviarne una copia di tutti questi ai comuni, in modo tale che le istituzioni di prossimità comincino ad avere a toccare con mano la portata di questo problema che, ripeto, è dilagante. Quindi c'è una seconda funzione, quella appunto che va verso l'istituzione, sapendo che appunto poi si genera una pressione a catena, perché se tanti comuni cominciano ad avere migliaia di questi moduli che vengono recapitati dal sindacato ASL USB ai propri sportelli, ai propri uffici, ecco, chiaramente comincia a diventare appunto una problematica comune che prende voce in maniera comune, invece che lasciare tutto al singolo e alla sua capacità o possibilità di trattare con un proprietario o addirittura di rivolgersi al comune o al servizio sociale, che purtroppo, detta come va detta, è una cosa che già non funziona per molti, per la maggior parte dei casi, in tempi ordinari, figuriamoci adesso. Ecco, fra l'altro poi vedo sul vostro volantino parlate anche di un'abrogazione di una legge del 98 per fermare il libero mercato degli alloggi e un incremento dell'edilizia residenziale pubblica. Esatto. Queste sono le nostre rivendicazioni più a lungo raggio, perché ci vogliamo sforzare di pensare anche al dopo crisi, La legge di cui tu parlavi è la 431 del 98, che è ancora la legge quadro rispetto all'organizzazione dei canoni sul mercato privato. Quella legge va pesantemente rivista, perché è esattamente quella che ha aperto le porte al caro affitti, che si è poi concretizzato oggi e negli ultimi anni si è acuito anche attraverso la turistificazione delle città e l'erosione da parte del fenomeno Airbnb, di cui molti parlano, del mercato abitativo. Ma questo esisteva già prima, cioè, come ci faceva notare una studiosa, Paola Bonora, abbiamo avuto un incontro con lei qualche mese fa e lei faceva notare, giustamente, ma era una cosa che avevamo già visto e già letto, che gli appartamenti amministrati su Airbnb sono una piccola percentuale rispetto invece a tutti quelli che sono gli appartamenti vuoti per speculazione edilizia. Quindi il problema c'era già prima, Airbnb ha dato un incremento, ma era generato da una normativa che va pesantemente rivista, appunto, contenere il mercato privato, soprattutto i prezzi del mercato privato, e ridare linfa a una politica abitativa pubblica che è ferma al palo dagli anni 80. Quindi non si costruisce più, le case popolari sembra che siano adesso la casa della marginalità sociale, e invece no, le case popolari nascono come le case dei lavoratori, costruite con i soldi dei lavoratori. Non dico che vorremmo ritornare indietro, ma andare avanti mantenendo ciò che di virtuoso è stato conquistato anche dalle lotte in passato, tra cui l'edilizia pubblica. Bene, bene, allora continueremo a seguire sicuramente questa questione che pressante, che deve trovare uno sbocco nei prossimi giorni, altrimenti i danni e i rischi sono veramente enormi. Sì. Hai un annuncio, da qualcosa da dire agli ascoltatori e alle ascoltatrici? No, se non di rimanere, con le orecchie dritte sui canali di comunicazione, che sono soprattutto le nostre pagine social, quindi Asia USB nazionale, che si chiama soltanto Asia USB, e anche Asia USB Bologna per chi è di Bologna, perché presto domani uscirà il comunicato nazionale, che sarà un po' la testimonianza della fine del percorso di assemblee regionali, del primo giro di assemblee regionali fatto in questi giorni, e uscirà e manderemo la lettera alle istituzioni, e poi soprattutto penso che o domani o dopodomani, stando anche a vedere cosa succederà, visto che è possibile che sia emanato un nuovo decreto che contenga qualche misura economica, noi poi convocheremo una nuova assemblea nazionale su questo tema per organizzare eventuali ulteriori passaggi. Quindi rimanete connessi, questa è l'unica cosa che ho da dire. Bene, bene, grazie. Ti ringrazio io, a presto. A presto. Questa era la voce di Freddy, di Federico, di Asia USB. Prima dell'ultimo contributo faccio una breve parentesi. Ricordo che alle 22, dopo questa trasmissione che andrà avanti fino alle 21:30, ci sarà la replica di Uru, Voci e Suoni dal continente africano. Ricordo anche che per contattarci in diretta si può usare l'indirizzo postawombat@insiberia.net o anche il pad, il cui link si trova sulla home del sito. Sempre sulla stessa home del sito si trova anche il palinsesto, che viene aggiornato di settimana in settimana, quindi insomma l'invito è a stare ovviamente ben connessi. Nel pad e per mail ci stanno arrivando intanto alcuni messaggi. Uno è un saluto a Freddy, super, sempre una bomba, arriva da Giacomino. Beh, io mi associo, lo conosco anch'io Freddy, e mi associo ben volentieri a questo saluto. Saluto anche direttamente Giacomino, ciao vecchio. E anche qualche messaggio che fa i complimenti invece prima al bellissimo intervento di Cecilia, che abbiamo sentito a metà trasmissione, un collegamento sulla situazione in Rojava. C'è anche chi mi scrive: metti di nuovo Kenny Rogers, che avete sentito la scorsa settimana, perché è un cantante folk americano che è morto, è venuto a mancare da qualche giorno. Beh, non c'è tempo oggi, ma promesso, promessissimo, che la prossima settimana non mancherà. Andiamo avanti invece con l'ultimo contributo sul tema affitti, ma rimanete poi con noi perché è super interessante invece la terza e ultima parte di questa trasmissione, in cui sentiremo le voci di chi si occupa e segue la questione di chi invece una dimora non ce l'ha, dei senza casa qua nella città di Firenze. Ma rimaniamo sul tema affitti. Avete sentito appunto Federico di Asia che ci parlava alla fine dell'intervista della legge 431 del 98, che è quella attualmente in vigore e che, come avete sentito, ha aperto la porta al caro affitti, che poi si è acuito con la crescente turistificazione delle città e ancora più negli ultimi anni con l'avvento di Airbnb. Ed è proprio su questi aspetti che si concentra l'ultimo dei nostri contributi di oggi su questo tema degli affitti. La voce che state per ascoltare è quella di Sara Gainsforth, che avete magari già sentito, non è infatti la prima volta che invitiamo a dire la sua qui su Radio Wombat, ma dai, non perdiamo altro tempo e sentiamo subito. Al telefono con Sara Gainsforth sulla questione degli affitti. Pressante questione degli affitti, direi, visto che siamo a inizio mese e i soldi scarseggiano per tantissime persone, e quindi volevo chiedere un po' a te, visto anche le tue conoscenze, hai scritto un libro sul fenomeno di Airbnb e sul fenomeno della crisi abitativa tanto negli Stati Uniti quanto poi nell'Europa contemporanea. Quindi volevo un po' chiederti, secondo te, quale sarà l'evoluzione di questa situazione dovuta al coronavirus, ma che sicuramente si installa su un terreno che è già difficoltoso. Sì, molto difficile fare, insomma, in questo momento qui delle previsioni, tutto in evoluzione, però sicuramente ci sono, insomma, due cose che appaiono abbastanza evidenti. La prima è come dire, il fallimento del modello Airbnb, e stiamo già vedendo che tante case stanno tornando, no, sul mercato ordinario, perlomeno, insomma, guardando gli annunci, che fa anche un po' ridere perché poi tengono le stesse foto degli annunci Airbnb, per cui, insomma, sono evidentemente case vacanza che adesso provano, i proprietari provano ad affittare a lungo termine. Quindi ci sarà una reimmissione di case nel mercato ordinario, che da una parte è una cosa molto positiva, perché prima, insomma, soffrivamo proprio l'offerta, la carenza di offerta di case per l'affitto normale, però invece adesso il problema più grande è quello del reddito, per cui in realtà, come dire, secondo me, se non c'è un intervento pubblico preciso su questo di sostegno al reddito per gli affittuari, come dire, non possiamo, appunto, ancora una volta lasciare alle dinamiche del mercato la soluzione. E quindi adesso, secondo me, bisogna, da una parte il governo dovrebbe ricordarsi degli affittuari che ha dimenticato nei decreti, credo che lo farà a breve anche, insomma, su pressione dei sindacati, ma anche di Confedilizia, perché poi, insomma, è anche un problema che riguarda i proprietari, e la proprietà in Italia, insomma, è più che altro frammentata e diffusa tra le famiglie, per cui sì, ci saranno anche qualche grande proprietario, qualche ente, ma, insomma, si tratta, appunto, molto spesso anche di famiglie che affittano una casa in più, che adesso si trovano anche loro in difficoltà. E quindi si vorrebbe una misura, come dire, emergenziale da una parte adesso di sostegno al reddito. Infatti i sindacati della casa chiedono un rifinanziamento del fondo, per esempio, per l'affitto, di sussidio all'affitto, che quest'anno è stato definanziato negli anni. L'anno scorso addirittura ha ricevuto solo 3 milioni di euro, per il 2020 50 milioni, ma, insomma, è una cifra irrisoria rispetto alle necessità. Per esempio, negli anni 2000 Roma soltanto riceveva 30 milioni di euro come fondo per l'affitto, quindi si capisce, appunto, che non è sufficiente. Infatti i sindacati stanno chiedendo che venga rifinanziato con almeno 300 milioni. E poi ci dovrebbe essere una modalità di erogazione molto rapida, per cui, appunto, il problema poi dei sussidi in Italia è che hanno dei tempi di erogazione infiniti, per cui comunque arrivano quando è troppo tardi. E per questo, appunto, i sindacati chiedono, per esempio, che ci possa essere un'erogazione anche direttamente al proprietario, insomma, per velocizzare le pratiche. Dopodiché c'è bisogno invece di ragionare un po' più a lungo termine sulle politiche abitative, che appunto secondo me è ottimo, insomma, iniziare a fare anche questo da subito. Ecco, fra l'altro, te proprio su questo, nell'inquadrare il fenomeno Airbnb, mettevi un po' la classe media in un posto di rilievo per questo fenomeno, perché è quella parte della popolazione che non solo ha deciso di investire nel progetto Airbnb, ma addirittura l'ha fatto proprio suo, era un vestito che calzava esattamente sulla classe media. Quindi questa classe media forse è quella che ora si trova in grossa difficoltà. Sì, che poi appunto, insomma, come dire, avevamo ragione a dire che appunto questa forma di welfare privatizzato non poteva funzionare. Infatti adesso lo stiamo vedendo, cioè non può essere una soluzione quella. Per cui in realtà, secondo me, con intelligenza adesso si potrebbero costruire delle politiche della casa. Insomma, ci vuole anche la volontà e l'intelligenza politica, che molto spesso non ci sono in Italia, però sarebbe invece adesso il momento di farlo, proprio perché appunto riguarda la condizione dell'affitto, riguarderà sempre più persone, perché le nuove generazioni sono sempre più povere, hanno sempre meno capacità di acquisto della casa. E abbiamo già visto come appunto il mercato privato già si sta interessando di alcuni settori come lo student housing, eccetera. Quindi non si può più sottovalutare questo segmento di mercato che è stato proprio tralasciato, insomma, da anni. E appunto riguarda, come dicevi tu, poi tutta una realtà di proprietari della classe media, che, per cui il reddito in più, insomma, dall'affitto della casa non è secondario. E quindi sì, bisogna ragionare su questo anche per appunto riequilibrare un po' anche, no, le funzioni delle città, perché adesso sono i centri delle città turistiche sono svuotati, però se non si tutelano gli inquilini si svuoteranno ulteriormente. Quindi ecco, si potrebbe creare, no, invece un'intesa, per esempio attraverso la costituzione, tra l'altro prevista per legge, delle agenzie per l'affitto, che sono degli enti che dovrebbero come dire, fare incontrare domanda e offerta di locazione privata a canone calmierato, garantendo un fondo di garanzia dei proprietari, per cui in casi eventuali di morosità esiste appunto un sussidio pubblico, per cui appunto i proprietari che si lamentavano del fatto che insomma non avevano garanzie, quindi mettevano la casa su Airbnb, anche loro sarebbero felici di, per esempio, di soluzioni del genere, per cui secondo me è anche l'occasione giusta per ripensare un po' in generale le politiche per la casa, insomma, in questo senso. Ecco, invece questi grossi cambiamenti sul mercato immobiliare potrebbero stimolare grandi gruppi di investimento per l'ulteriore acquisto, l'ulteriore furto di patrimonio pubblico? Ma guarda, questo è da vedere, perché appunto è proprio molto difficile adesso fare previsioni. Io su questo sinceramente non lo vedo molto come rischio, perché in realtà noi questa situazione l'abbiamo anche già vissuta, cioè dopo il 2008 il mercato immobiliare italiano, tra l'altro l'unico in Europa, insomma, è crollato, cioè i prezzi dei canoni sono scesi, perché prima erano gonfiati ovviamente, però sono calati. E non è che abbiamo visto questi grandi fenomeni speculativi, se non in alcune aree, appunto Venezia, Firenze, centri storici, questo sì. Però in generale, come dire, se non c'è un'economia al di là del mercato immobiliare, non c'è neanche tutto questo interesse a speculare, cioè i mercati ormai funzionano in base ai flussi, per cui se appunto c'è un'economia ferma, poi non si genera l'interesse, tanto che appunto soprattutto nelle città del centro, del sud e via dicendo, c'era interesse soltanto per alcuni settori, quali appunto gli alberghi, gli studentati e le case di nuova costruzione di lusso. Allora sì, allora c'erano gli investitori privati, ma per tutto il resto molto poco. Quindi questo è già, come dire, la situazione come era prima. Adesso a maggior ragione, secondo me, insomma, no, io non vedo, proprio perché la proprietà è frammentata tra tante famiglie, non vedo i Blackstone venire ad acquistare centinaia di appartamenti in Italia. Poi, secondo elemento, secondo me importante, insomma, da investigare di più è che in realtà poi i settori su cui i grandi gruppi investono non sono più il residenziale, ma sono quelli per esempio della logistica, perché appunto del retail, se pensi adesso al boom del commercio online, stanno sempre più investendo, e questo anche già da prima, in per esempio centri, no, come di dismistamento, come Amazon e via dicendo. E quindi quello è tutto un altro settore di cui sappiamo molto poco, che io insomma vorrei cominciare a capire un po'. Investono più in quello e in appunto centri di dati e via dicendo, per cui questa insomma è una mia idea. Poi per carità, potrebbe anche essere che vedremo, c'è il rischio sicuramente di speculazioni, perché è chiaro quando i prezzi crollano, però insomma, cioè, prima era appunto il mercato non era, stava cominciando un po' a riprendersi, e a parte il fenomeno Airbnb non abbiamo mai avuto i fenomeni appunto speculativi come c'erano invece in altre città anche europee del nord Europa. Ecco, ma questo fenomeno Airbnb, che a parte in alcuni paesi si è visto, si vede contro uno schieramento fra sindacati e non solo, sindacati inquilini e movimenti per la casa, è molto forti. Ora in Italia questa cosa non succede, però sicuramente è arrivata una mazzata abbastanza grossa anche ad Airbnb. Sì. Si può definire un fallimento per una grande azienda del genere, oppure è tranquillamente in grado di riprendersi e di riniziare a fare il suo corso, secondo te? Non lo so, sono curiosa di vedere, nel senso che adesso, come dire, se è basata sul turismo, prevalentemente appunto sul turismo, non si può riprendere, cioè almeno insomma quest'anno, perché come dire il turismo sarà fermo per molto tempo, perché appunto il turismo è anche un fattore emotivo, insomma, per cui adesso non è che riprenderà il turismo immediatamente quando noi usciremo dalla quarantena, insomma da questo lockdown, quindi non lo so. Poi si doveva quotare in borsa, non si quotare in borsa, quindi non so, l'Airbnb in sé potrebbe anche essere insomma un modello ormai finito, dopodiché è chiaro che noi conosciamo bene appunto le dinamiche, no, del capitalismo, per cui qualche altra invenzione salterà fuori, cioè, sicuramente. E già prima, come dire, c'era chi insomma stava cercando, perché poi molti anche insomma operatori vari eccetera stavano cercando comunque di bypassare la piattaforma, cioè di trovare nuovi sistemi per appunto bypassare la piattaforma e la commissione, per cui per esempio attraverso sistemi di blockchain e via dicendo. Quindi c'era già prima un ragionamento su questo, e quindi cioè, figuriamoci se non si inventeranno qualcos'altro. Però appunto proprio per questo credo che sia importante adesso, come sulla sanità adesso ci siamo tutti resi conto che va tutelata e finanziata, cioè, ci deve essere lo stesso tipo di attenzione anche sulla questione insomma dell'abitare. Bene, allora, senti, l'ultima domanda che volevo farti era per tornare un po' al punto che si diceva prima, tutto lo sciopero, diciamo la piattaforma creata da Asia, per un eventuale sciopero degli affitti, che viene inteso come uno strumento di pressione nei confronti delle istituzioni, soprattutto nazionali, al fine del rilascio di nuovi fondi. Ti sembra uno strumento adeguato questo? Guarda, se è pensato come uno strumento di pressione, sì, senz'altro, cioè, come dire, per richiamare l'attenzione sul tema, ben venga. Dopodiché appunto secondo me ci vuole ben altro, perché ci vuole appunto, secondo me ci vogliono dei fondi, perché il problema non può neanche essere spostato in avanti, cioè secondo me non è neanche giusto, come credo abbiano appena fatto in Spagna, poi non ho approfondito, però di sospendere i canoni, cioè secondo me va istituito questo fondo per cui i canoni si pagano con i sussidi, anche in modo appunto per cui poi gli affittuari non si ritrovano un debito tra 3 mesi, perché poi altrimenti succede questo. Quindi, come dire, deve essere una questione che deve essere affrontata a livello di politiche pubbliche, non può essere lasciata ai singoli tra inquilini e proprietari, contrattazioni, magari attraverso i sindacati, però insomma diventa veramente una situazione impossibile, invece va gestita, secondo me, appunto con un provvedimento del governo ad hoc in questo senso. Ecco, questo nell'ottica poi di una lotta per la casa, diciamo, io, leggendo il tuo libro, si capisce che laddove questa è stata portata avanti in modo efficace è perché vi si è trovato un punto d'incontro, diciamo, fra chi facevano lotta per la casa e chi invece facevano lotta per una turistificazione di un certo tipo delle città. E ad esempio, quindi, abbiamo visto gli inquilini affiancarsi agli albergatori, per dire. Sì, sì. Ecco, questa cosa qua in Italia non sta assolutamente succedendo. Sì. Lo ritieni un problema ai fini del raggiungimento di un'edilizia popolare, di un'edilizia sostenibile, di canoni sostenibili? Sì, secondo me, appunto, sì, sicuramente andrebbe... Cioè, il tema è veramente sottovalutato, per colpa poi della politica, perché comunque sia, io non ho ancora sentito il ministro parlare del problema della casa, cioè il ministro delle infrastrutture e dei trasporti parla solo di infrastrutture e di trasporti, quando da quel ministero dipendono le politiche abitative. Ci sono 5 milioni di famiglie in Italia che abitano in affitto e la metà di queste già prima faceva fatica a pagare l'affitto, per cui è un problema, come dire... Insomma, non è nuovo, è chiaro che in questa crisi fa emergere, no? Porta alla luce tutte queste situazioni, per cui ancora è troppo sottovalutato, però sì, chiaramente l'ideale sarebbe invece di riuscire a ripensare le politiche pubbliche in maniera radicale, come dire, perché in realtà sono state più o meno abbandonate le politiche, diciamo, gli interventi diretti da parte dello Stato con la fine della costruzione di edilizia residenziale pubblica, anzi con i piani di vendita, insomma hanno venduto tantissimo, con la fine dell'equo canone, e hanno sostituito quindi l'intervento diretto con i sussidi, quindi appunto questo sussidio per l'affitto e il fondo per la morosità incolpevole, di cui in 5 anni sono riusciti a spendere la metà dei soldi, per quanto funziona male. Per cui andrebbe fatto un discorso appunto generale su quale sia l'orientamento generale sulle politiche della casa. Se interventi diretti, insomma, andrebbe veramente rimesso un po' tutto in ballo. Il problema è che appunto in realtà non tutto questo settore non gode dell'interesse né della politica né insomma della maggior parte della popolazione, proprio perché l'acquisto della casa è stato incentivato così tanto. Però si potrebbero fare molte cose, proprio perché appunto in un momento in cui non c'è un mercato immobiliare con valori e prezzi alle stelle, in realtà il pubblico avrebbe tantissime opportunità invece di intervenire anche con strumenti e visioni innovative. Bene, immagino tu stia scrivendo per qualche giornale, immagino che quindi tutte queste cose poi le ritroveremo anche sul cartaceo. Sì, sì, spero di sì. Sì, sì. Bene, ti ringraziamo allora. Bene. Grazie, grazie a te, grazie a voi. Ed eccoci di nuovo qui insieme. Quella che avete sentito era la voce di Sara Gainsforth. Chi mi scrive e mi chiede di dire il titolo del suo libro, certo, ben volentieri, è Airbnb, città merce, storie di resistenza alla gentrificazione digitale, pubblicato da Derive a Prodi. Altri messaggi, grandi ceci e ceci, grande Bricco, c'è anche un grande Mario, ma per modestia lo dico per ultimo. E, dai, allora andiamo verso l'ultimo argomento in questi ultimi 20 minuti assieme. Senza perdere tempo, mettiamo subito una canzone bellissima che ci introduce poi a questo argomento finale. probabilmente deve essere strada, la vita lavorata per il tempo e il denaro e la casa costruita come un ponte su una cascata, un ponte su una cascata. E quel che vedi dai finestrini di questa macchina usata è difficile capire cos'è, ma deve essere strada. E se quindi deve essere strada, ci deve stare chi ci cammina e chilometri di passeggiata e poche case sulla collina. E deve esserci acqua che piove, ci deve essere acqua che piove per il fiume che porta al mare in fondo a questa vallata, che da qui non si vede granché, ma deve essere strada. E tu che parlavi una lingua da tempo dimenticata, dov'è che l'avevo sentita? Quando è che l'avevo scordata? La tua voce era alta e incredibile, oltre il suono della cascata, ed un cielo di zucchero nero e di carta stellata prometteva esperienza e mistero per tutta la strada. E c'era una porta segreta e un'uscita mascherata sotto gli occhi di un leone di pietra e di una vergine chiacchierata. Usciti dalla notte dei tempi o da una pagina patinata, e c'era pianto e stridor di denti, ma poi la porta fu spalancata. E finalmente la banda passò a ripulire la strada. E finalmente la banda passò a ripulire la strada. Probabilmente deve essere strada anche la vita consacrata al tuo corpo e alle tue mani e alla curva complicata che rasenta l'innocenza e l'abisso e la cascata, e che conosce l'invenzione prima ancora che sia inventata, e che conosce la canzone, conosce la strada, e che conosce la canzone, riconosce la strada. E che conosce la canzone, riconosce la strada. Beh, direi che non serve che precisi che si trattava di De Gregori sulla strada, e quindi sulla strada ci porta appunto all'ultimo argomento di oggi. Approfitto intanto per ringraziare i nostri molti ospiti di oggi, ricordando che tutti i loro contributi si possono già trovare o si troveranno sul sito della radio già da domani, quelli che invece già non ci sono. L'ultimo argomento, di cosa andiamo a parlare? Beh, andiamo a parlare della questione dei senza dimora, innanzitutto con Francesco di Insider. E come già avevamo fatto la settimana scorsa, domenica scorsa, con Sara Cortanessi di Outsiders, quell'intervista si può anch'essa ritrovare sul sito della radio. Intervistiamo oggi un altro operatore di un progetto sempre della cooperativa sociale ECAT. Il progetto si chiama Insider, lui è Francesco. E beh, questo progetto è senz'altro un osservatorio privilegiato sulla condizione delle persone senza fissa dimora nel comune di Firenze. Un servizio che risponde alle situazioni di crisi o di emergenza ed anche in raccordo con i servizi sociali o la rete delle strutture di accoglienza presente sul territorio, per loro si adopera. Lo ha intervistato Francesca e beh, sentiamo subito. Oggi, come polveriera e come Radio Wombat, abbiamo pensato di intervistare un operatore di strada che lavora in un progetto rivolto ai senza fissa dimora, che è in collegamento con noi per telefono. Ciao Francesco! Ciao, ciao a tutti, ciao Francesca! Ciao! Allora, intanto grazie per questa intervista, perché immagino che insomma non sarà un periodo facile, e quindi grazie per questo tempo che ci stai dedicando. E intanto volevo chiederti se puoi spiegare insomma meglio di me quello che fate. Ma il progetto è un progetto che si svolge durante tutto l'anno, da un po' di anni, e niente, noi facciamo delle uscite, siamo degli operatori di strada, facciamo delle uscite in strada settimanali, sia di monitoraggio, cioè di appunto visione delle varie zone della città, del comune di Firenze, per avere sotto mano e sott'occhio insomma le situazioni dove senza fissa dimora più o meno insomma albergano e vivono la loro vita quotidiana. E ovviamente poi cerchiamo anche dei contatti, di conoscerli meglio, di informarli dei servizi, di capire se conoscono i servizi, se non li conoscono, di indirizzarli verso i servizi di prima soglia, che sono le mense, come la mensa Caritas, o ambulatori medici per senza fissa dimora, o appunto altri servizi, anche fino alla parte, alla soglia del segretariato sociale, insomma degli assistenti sociali. E nel periodo invernale poi ci concentriamo soprattutto anche quando le giornate, le settimane sono più fredde, anche sulle emergenze, cosiddette emergenze fredde, quindi cercare di portare persone dentro le strutture temporanee dell'emergenza fredda. Questo un po' più o meno. Comunque ci rivolgiamo e lavoriamo con i senza fissa dimora. Ok, dentro Firenze. Nel comune di Firenze. Nel comune di Firenze. E a questo punto mi viene subito da chiederti che cosa è cambiato ora con la presenza di questo virus per strada. Certo. Allora, noi siamo sempre presenti e le nostre uscite sono sempre sul territorio, sempre presenti anche in queste settimane di allerta Covid. E sono cambiate diverse cose, indubbiamente. La città, come molte persone insomma avranno un'idea, è comunque la città è tendenzialmente vuota, lo sappiamo tutti, molte attività sono chiuse, lavoratori a casa, la città è piuttosto vuota, soprattutto il centro della città è veramente vuoto, e forse quello che risalta di più, il centro della città, avendo meno residenti, non avendo i turisti e nient'altro, è quello, la parte della città che risalta per la sua parte appunto di mancanza di persone. E quindi anche senza fissa dimora sono anche persone che magari gravitavano in zone più centrali, tendenzialmente stanno tendendo ad andare verso le periferie, o comunque a diradarsi insomma verso la città, quindi sono meno visibili. Più difficile da contattare per noi, questa è la prima cosa che risalta. Poi sono cambiate un po' le questioni annesse alle strutture, alla struttura di prima soglia, perché le strutture di prima soglia, come l'emergenza freddo per il periodo invernale, è ancora appunto l'emergenza freddo è ancora aperta, e così anche altre strutture di prima soglia Cioè, prima soglia aspetta, significa... definiamo, ecco, grazie. Prima soglia significa quelle strutture che sono dedicate alle persone che proprio dalla strada escono dalla strada, quindi che non hanno un passaggio di altre strutture o di residenze nella città del comune di Firenze o insomma che sono residenti a Firenze, quindi il passaggio di altre strutture di seconda, terza soglia. La prima soglia è proprio dalla strada alla struttura. Ci sono alcune strutture che sono dedicate a questo. In questo periodo cosa è cambiato nelle strutture? È cambiato che le strutture di prima soglia non accettano più nessuno dalla strada in questo momento, proprio per il rischio Covid, come si può comprendere, e per la tutela delle altre persone anche all'interno delle varie strutture e dei lavoratori anche, però è cambiato che molte di queste strutture di prima soglia, cioè le strutture di prima soglia, sono aperte anche in orario diurno, mentre nei periodi normali cosiddetti le strutture di prima soglia chiudono la mattina alle 9 circa, insomma le persone vanno fuori e possono rientrare la sera stessa. In questo momento sono aperte proprio per dare la possibilità a, senza fissa dimora che sono all'interno, di poter stare in un luogo sicuro e non girare per la città. Questo è quello che è cambiato, è la parte più importante, diciamo, che è visibile, il cambio dell'emergenza Covid. Ok. Quindi secondo voi che cosa possono fare le persone, magari, non so, se mi capita di vedere qualcuno per strada, come posso aiutarlo, in qualche modo se posso aiutarlo? Certo. Senti, allora, un altro, ora, non ho detto, ma un'altra questione che è cambiata è che appunto molti di questi senza fissa dimora, in una città come Firenze, in parte queste persone comunque anch'esse vivono un po' dell'economia informale della città, dell'economia non è di questa città, che soprattutto nel centro storico è molto basata sul turismo, la ricettività, e quindi una parte di queste persone comunque usufruiscono in minima parte di un'economia informale legata a questo settore economico, attraverso anche semplicemente l'elemosina o appunto cose del genere. In questo momento è tutto fermo, non c'è nessuno, non c'è un turista, quindi cosa risalta principalmente è che manca, per alcune di queste persone, manca il cibo. Ci sono delle mense aperte, alcune mense sono aperte, dando il cibo a sacco, non facendo entrare la persona, ma dando il cibo che possono portare fuori, però ovviamente insomma il cibo è quello che risalta di più, la mancanza di cibo. Quindi cosa possono fare le persone, i cittadini? Possono fare le segnalazioni al Comune di Firenze, all'inclusione sociale, come da norma, come lo possono fare anche extra emergenza Covid, e comunque se vedono delle persone possono sicuramente lasciargli del cibo, è ben voluto da parte di molti. Okay. E tra l'altro vediamo anche in città, e questo potrebbe essere un'altra soglia d'aiuto, vediamo in città che stanno sorgendo dei punti di raccolta di cibo fatti da cittadini, autonomia, delle volte anche delle chiese, e dove appunto ci sono delle scatole con del cibo, c'è un piccolo cartello che dice chi può lasci qualcosa, dove chi ha bisogno può prelevare un pacco di pasta, del pane o qualcosa insomma per mangiare, e queste cose insomma stiamo notando che stanno sorgendo per la città di Firenze, possono essere utili, vanno pubblicizzate, incentivate, e comunque è una prima risposta anche autonoma di una parte della cittadinanza insomma, verso certo. Questo bisogno del cibo. Certo, va bene, grazie mille per questo sguardo sulla strada, e magari poi ci riaggiorneremo in futuro se ci saranno delle novità in qualche modo, speriamo delle novità positive per tutti. Sì, grazie. Speriamo. Bene, grazie a voi di averci coinvolto. Bene, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. A tutti. Grazie a Francesco di Insider e a Francesca che ha raccolto per noi, per la radio, questa intervista. Sto decisamente andando lungo, me ne rendo conto, però ci tengo tantissimo a mandare anche l'ultimo contributo di oggi. Abbiamo infatti intervistato Roberto di Fuori Binario, che è, come penso sappiano in molti degli ascoltatori, il giornale di strada dei senza dimora della nostra città, e a lui abbiamo chiesto delle informazioni e degli aggiornamenti sulla situazione di chi non ha casa, dei senza dimora appunto del comune di Firenze. In sottofondo i Pogues con Sunny Side of the Street, e dai, sentiamo quest'ultimo contributo e più avanti ci risentiamo per i saluti. Roberto di Fuori Binario, buonasera. Ciao. Allora, siamo con Roberto per avere un parere, un po' delle informazioni sulla situazione dei, come li chiama il sindaco Nardella, degli invisibili a Firenze. Sì. Più nella precisione, dovrebbe uscire a brevissimo le direttive dell'amministrazione comunale sulla gestione dei buoni pasti emanati dal governo, e una parte di questi riguarderanno le persone che vivono in strada anche, va bene, i cosiddetti invisibili. Quindi siamo con Roberto per chiarire la questione. Intanto, come sono andate queste settimane per queste persone? Almeno nella parte di Firenze che te hai più sotto mano, quindi San Frediano, Santo Spirito, soprattutto riguardo sì. Per l'attività di Fuori Binario e l'albergo popolare. Sì, la questione è, insomma, come sono andate. Diciamo che un po' male all'inizio, perché in effetti si sono un po', diciamo, assestate, per modo di dire, dal momento in cui 15 giorni fa, più o meno, hanno riaperto per 24 ore l'albergo popolare, per cui la gente, siccome c'è il decreto di non star per strada, eccetera, no? Ha potuto usufruire dell'apertura 24 ore. Ecco, qualcuno riesce magari a comprarsi qualcosa, eccetera, però possono, mentre prima li buttavano fuori, cioè li facevano uscire alle 9 e poi rientravano alle 7 della sera, capito? Per questo, almeno quello, è un punto, diciamo, a favore di loro, ecco. Ecco, l'albergo popolare ha una capienza di circa 200 posti letto, che è stata aumentata, se non mi sbaglio, sono stati approntati degli ulteriori posti letto, e è sufficiente a garantire, diciamo, un luogo dove stare durante il giorno per tutte le persone che sono in strada a Firenze? Sì, queste 224 persone, 20-30 più o meno, lì all'ospedale, sì, all'ospitalità dell'albergo popolare, diciamo. Poi c'è la foresteria Pertini, che è un altro posto a disposizione, un'altra struttura che è della cooperativa dell'orologio, insomma, si chiama, con altri 100 e passa ospiti, insomma, che sappiamo noi. Però, capito, a Firenze ci sono quasi 2000 senza dimora. Mi chiedo, sì, poi vabbè, ci sono dei rom anche che sono obbligati nei loro campi, proprio non possono uscire, questo, vengono anche, insomma, vengono curati che non escano, ecco. E beh, c'è queste cose. Per i buoni pasto, ora non so, li daranno ovviamente all'albergo popolare, arriveranno, quello sicuro, e magari anche alle associazioni. Che purtroppo noi non abbiamo mezzi per poter muoverci, portare, a parte che non si potrebbe, sembra, però c'è queste strutture che passano, diciamo, a dare un po' il servizio in strada a quelli che sono rimasti in strada, che se vai a vedere non ce n'è molti, se vai a vedere un po' a giro, per dire, io giro quei due giorni la settimana per andare in redazione, perché abbiamo anche la posta, no, virtuale di qualcuno, per cui se hanno bisogno chiamano e si va a dargliela, ecco. Volevo chiederti riguardo ai provvedimenti che sono stati fatti, cioè per la chiusura dei fontanelli, la chiusura dei servizi igienici, se vi sono stati. Sì, no, questo è stato, era già partito l'anno scorso, all'inizio mi sembra dell'anno scorso, se non, sì, mi sembra la chiusura delle docce in via Sant'Agostino, no? è la struttura che è vicino a Santo Spirito, in pratica, via Sant'Agostino, c'erano delle docce popolari, e uno aveva la possibilità con 2-3 euro di farsi la doccia, per dire, no? Hanno chiuso quella, hanno aperto il WC lì vicino a Santo Spirito, insomma, un WC a pagamento, però docce, cose, non c'è più possibilità. Per dire, c'è un altro posto, la Fenice, però è ora poi con l'emergenza, diciamo, contagio, eccetera, ti fanno passare 5 persone al giorno, capito? Per dire. Vi sono stati casi di denunce per persone che non hanno rispettato le ordinanze? No, denunce sembra di no a Firenze, o forse una, ora non ricordo. So di gente che appunto andando a fuori binario alla redazione, incontro, insomma, gente che frequenta appunto l'albergo popolare, abita lì. Volevo dire, qualcuno è stato fermato, andate a casa, ma come, la casa non l'abbiamo? Hanno avuto dei battibecchi con i vigili, assurdi appunto, perché ancora a quel tempo non era aperto il 24 ore, no? Capito? Quindi giudichi sufficienti le misure prese dall'amministrazione, almeno in questo caso di emergenza? Ma verso il senza dimora, insomma, chi appunto è, diciamo, emarginato, insomma, dalla possibilità che ha e sta in queste strutture, le cose sono venute dopo, cioè forse per la pressione appunto di associazioni o anche della Chiesa, per dire, no? Capito? Sono state mosse dopo le cose, ecco. un po' dopo, ecco. Già c'era l'emergenza, capito? Certo. Comunque, è un momento, insomma, qualcosa è venuto fuori, poi appunto questi buoni nuovi speriamo che vadano a buon fine, ecco. Senti, invece riguardo a Fuori Binario, come sta andando, come state svolgendo il lavoro importante che fate? Fuori Binario, ci avevo pensato, dico, ma hai chiesto tu, insomma, avevamo fatto a inizio anno un appello per crisi, diciamo, no? Diciamo economica, no? Pagamento d'affitto, qualche giornale, e qualcuno ha risposto, insomma, avevamo appianato un po' più della metà, no? E ora con questa storia qui, capito, anche i distributori o redattori di Fuori Binario, capito, non è, i distributori soprattutto non possono avvicinare la gente, per cui, ma neanche c'è gente, per dire, no? E per cui sono tutti fermi. Se noi abbiamo, diciamo, 6-7 distributori che sono ragazzi o meno, insomma, non comunque anziani. Di Fuori Binario, che sono rom, e ora sono costretti a stare nei campi con i giornali che avevano, e tutto, a parte che se girano non trovano nessuno, capito? C'è questa, diciamo, paura, questa, insomma, bisogna, non per i rom, proprio per il contagio, queste cose, capito? Ecco, Fuori Binario è un giornale di strada, esiste veramente da tantissimi anni. Sì, l'anno scorso erano 25 anni, ora siamo nel 26esimo, diciamo. Ecco, la difficoltà è nel pagare l'affitto di uno stabile che è della proprietà del comune, se non mi sbaglio, vero? Sì, è del comune, ma non è la questione, a parte che non è relativamente basso, è ammortizzato, ma non è ancora, perché noi appunto siamo autogestiti, autofinanziati, no? Per cui difatti abbiamo fatto anche un po' fatica a fare l'appello, nel senso non è che ci piaceva molto, però una volta succede, si può anche fare, abbiamo amici, gente che ci segue, per cui, capito, e nulla, e ora stiamo tornando ancora un pochino in questa situazione, perché essendo fermi, noi le entrate di Fuori Binario principalmente sono appunto nella distribuzione del giornale, perché chi lo distribuisce, il distributore, appunto, l'ho fatto anch'io al tempo, lo paga il costo che viene, no, per coprire tutte le spese dell'associazione, della redazione più che altro. Certo, quello che possiamo fare anche noi è quello di sostenere Fuori Binario, non so, c'è un modo... Anche con un abbonamento, capisci? Cioè, dietro sul giornale c'è scritto come fare, tu diamo un sito, leggetelo, al momento stiamo mettendo appunto anche cose su questa emergenza, magari cose prese, su altre stampe, come si può dire. Sì, fra l'altro vedo un articolo che parla della situazione carceraria. Voi avete mensilmente portate un contributo sul giornale sì, anche cartaceo. Perché conosciamo un personaggio che è famoso, diciamo, perché scrive appunto dal carcere, Musumeci Carmelo. Certo. Lui appunto partecipa alla redazione di Ristretti Orizzonti, no? che ci sono anche loro da anni, parlano proprio dei carceri, fanno proprio una diaria, diciamo, da tutti i carceri d'Italia e anche notizie dal mondo. Per cui abbiamo questo, diciamo, epistolarietà via mail, capito? Sì. Sul carcere abbiamo sempre qualche pagina, ecco. Bene. Grazie a tutti, anche a chi ci sente, a chi ci segue, grazie. Grazie a Forbinari, a tutta la redazione. E ce la faremo, via. Eh sì, grazie anche da parte nostra a tutti quelli che ci hanno ascoltato e scritto. Faccio un paio di saluti finali col sottofondo dei Talking Heads. Saluto Davide, saluto Paolo che mi stanno scrivendo, mi hanno fatto complimenti per la trasmissione, anche Cecilia che mi dice canzone d'infanzia sulla strada. Saluto quei pazzi di Marco e Giacomo che mi hanno scritto, oltre che per questo, anche per farmi gli auguri di compleanno. No, amici miei, non è il mio compleanno, però grazie lo stesso, come fosse. E ancora un saluto a Gianni, mitico, Gianni Brozzi, grandissimo, che ci sta ascoltando da casa. Beh, ringraziamento anche a tutti gli ascoltatori, che sono stati tantissimi oggi, davvero. Ho il potere io qua di vedere quanti siete durante tutta la trasmissione. Davvero un sacco di persone ci hanno seguito in questa diretta lunghissima, ho strabordato senza ombra di dubbio, avrei voluto dire un sacco di altre cose ma direi che mele e vele risparmio, e ci sentiamo sicuramente domenica prossima con me. Ricordo che il palinsesto viene aggiornato di settimana in settimana, lo potete trovare sul sito della radio oltre alle dirette consuete delle 19, stasera lo aggiorneremo per la prossima settimana, dopo di me Uru, voci e suoni dal continente africano, e poi alle 23:30 racconti di quasi mezzanotte, stasera Legge Tasso con Censura Subito di Ann Svenonius. Godetevelo, rimanete quindi incollati qua che ci sono ancora ottimi contributi prima di andare a letto, e diciamocelo, cosa avete di meglio da fare che stare qua ad ascoltare Radio Wombat? Decisamente, sicuramente niente. Infine, ancora vorrei ricordare i contatti, ci potete scrivere durante tutta la settimana, leggiamo e anche rispondiamo a postawombat@insiberia.net, oppure godetevi l'ebbrezza di un messaggio vocale che ci potete mandare dalla vostra quarantena alla messaggeria del Wombat, il link si trova nella home della pagina, c'è un bel bottoncione rosso dopo che avrete cliccato sul link dove potete registrare tutto quello che volete. Io vi do il buon proseguimento qui su queste frequenze, su queste onde mediocri, e dai, ci sentiamo molto presto con me, più tardi con tutti gli altri, e vi lascio con una canzone del mio gruppo preferito. Adesso che è finita la trasmissione lo posso dire, lo posso fare, nessuno più mi giudicherà né smetterà di ascoltare per questo. Via! Via, me ne sbatto tanto. il mondo in tasca. Radio Wombat. Da sempre e obiettivamente la migliore.